Europa 24. Un saluto anche da Gigi Donelli. Partiamo da un dato, un'indagine demoscopica di fatto realizzata da Deloitte in collaborazione con SVG e che si riferisce all'idea di Unione Europea. Tempo di crisi, lo sappiamo, c'è distanza di fatto, c'è preoccupazione in molti. I numeri però raccontano che senza l'Unione Europea si starebbe anche peggio, così il 57% degli italiani e il 53% degli europei. Staremo a vedere, qui stiamo entrando in un momento molto delicato, il 15 marzo le elezioni in Olanda, uno dei paesi davvero più che più mettono in discussione la continuità dell'Unione, dell'Euro e l'appartenenza dunque all'Unione, che sono poi le elezioni che in qualche modo anticipano la grande sfida del mese successivo in Francia, presidenziali, primo e secondo turno. Insomma, per adesso il 57% degli italiani dicono meglio così che senza. Unione Europea, Donald Tusk non può contare sull'appoggio del governo di Varsavia per la sua rielezione alla presidenza del Consiglio dell'Unione. Così oggi Jaroslav Kaczynski, leader del Partito Populista Diritto e Giustizia, al governo. Tusk, secondo lui, starebbe violando le regole fondamentali dell'UE, in particolare, ha detto Kaczynski, quella della neutralità in riferimento ai problemi interni dei paesi membri. Insomma, a Varsavia non apprezzano il ruolo che l'Unione Europea sta facendo, ha fatto sentire il suo peso in materia di libertà di stampa, di informazione, e evidentemente il fatto che sia proprio un polacco a capo di questa importante istituzione dell'UE non piace a chi è al potere a Varsavia. Tant'è. La Brexit, la futura uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, rischia di tradursi in un conto più salato per paesi come l'Italia nei contributi al bilancio comunitario. A lanciare l'allarme è stato il commissario europeo al bilancio Günther Oettinger. Ma sentiamo nel servizio lo stato dell'arte di questo percorso che ormai va avanti da mesi e che ancora non arriva in porto. Sentiamo. La premier britannica Theresa May ha intenzione di abolire la libera circolazione per i migranti dell'Unione Europea a metà marzo, in coincidenza con l'avvio dell'articolo 50 della procedura per la Brexit. A scriverlo è il quotidiano conservatore ed euroscettico The Telegraph, che agita così lo spettro di una stretta sulla libera circolazione in Inghilterra. L'articolo 50 prevede infatti che gli immigrati in arrivo dal continente non abbiano più automaticamente il diritto di rimanere in modo permanente nel paese, e non solo, potranno essere anche soggetti a un visto di lavoro e vedersi limitare l'accesso ai benefit. Eppure, proprio su queste notizie che sembrano date per certe, è intervenuto a ridimensionare la cosa Downing Street, secondo cui non è stata indicata una scadenza perché il governo di Londra non intende prendere decisioni unilaterali prima che sia raggiunto un accordo con Bruxelles. È però chiaro a tutti che la libera circolazione in Gran Bretagna cambierà in ogni caso. Il governo inglese sta infatti lavorando a una serie di limitazioni e sta cercando anche di mettere in chiarezza molte cose sulla questione Brexit-Scozia. Secondo il Times, la premier conservatrice teme la possibilità che venga chiesto ad Edimburgo un secondo referendum sull'indipendenza dal Regno Unito, cosa che la premier scozzese farebbe anche domani e lo ha più volte dichiarato pur di rimanere nel mercato unico europeo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso è tempo di tutti convocati, naturalmente il nostro spazio dedicato allo sport, e noi ci risentiamo domani intorno alle 14. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.